Giove è il pianeta più grande del sistema solare. Giove è fatto da gas. Quelli come fai il motore della macchina. Oppure come le bollicine dell'acqua frizzante che abbiamo bevuto insieme all'acqua naturale, senza bolle. Ho soffiato nella cannuccia con l'acqua nel sapone e il colore. Abbiamo fatto le bolle di gas.